Tutti voi sapete che nei nostri fiumi e nei nostri laghi vivono le anguille, ma sapete anche dove nascono? Quando si avvicina il tempo di deporre le uova, l'anguilla sente un gran bisogno di discendere lungo la corrente di un fiume. Perciò, se si trova già in un fiume, va verso la sua foce, e se si trova in un lago, imbocca il fiume che esce dal lago. Quando giunge al mare, intraprende un lunghissimo viaggio. Attraversa tutto il mare Mediterraneo, passa per lo stretto di Gibilterra ed entra nell'Oceano Atlantico, che attraversa quasi completamente. Quando è giunta in una zona piena di alghe, chiamata Mar dei Sargassi, essa depone le uova e poi muore, scomparendo nelle profondità marine. Nello stesso luogo arrivano, per riprodursi, anche le anguille che vivono nei fiumi e nei laghi americani. Quando le uova si dischiudono, le piccole anguille, lunghe solo qualche centimetro, iniziano il viaggio di ritorno, nuotando e lasciandosi trasportare dalle correnti. Quelle nate da anguille americane vanno verso l'America, quelle nate da anguille europee tornano verso l'Europa. Il viaggio per queste ultime è lunghissimo, dura 3 anni, ma finalmente esse possono risalire i fiumi e tornare nei laghi, dove vivranno fino al momento in cui l'istinto le avvertirà che è giunto anche per loro il tempo del grande viaggio verso il mare e l'oceano.